Accesa la stufa, l'hai, perché? Accesa. Male, là. E oggi mi pare che fa freddo. Freddo domenica, freddo di cane. C'è un grado, c'è, un grado, occhio amicidio, freddo. La cena adesso o come? A partirci ora. Appena acceso, capito? Ho acceso e ho provato a chiamare, dai. Va bene. Ehi, Nico! Aspetta un attimino. Vaffanculo. Aspetta. Ecco qua. E ma dov'è? Buonasera. Buonasera pure a lui, signor Luca. E ben sentito. È un subalacchino, siete a attendere. Luca, è stato a ogni tanto cambiare, comprendo? Andiamo in vela. Non stavo riconoscendo. Andava, io sono stato a mangiare, oggi va a vammere, a mandicare, nacchi. Oh, non è ora di mandicare, questo è ora di ricordare che fa freddo. Dopo mandicare, a cordare. No, prima cordare che viene l'appetito, poi... Io quando cordo e mangio, mangio e cordo come lo stesso, non c'è problema. Ma c'è tutti e due, anche se non mangio, cordo e poi mangio e cordo. Poi come fa a sederti? Ti fa male tutto? Sì, no, non mi ci fa lo stomaco pesante a me, no, assolutamente. Già, sei con i colpi. Spargi tutto il mangiare con i colpi. Adesso un grado c'è oggi. Mamma mia, oggi vuol far cazzate. Ma non è che lì oggi c'è l'erbero, ce la fai a passare a camminare dopo. Ma Luca, fino a quando permettiamo andiamo noi. Poi la notte facciamo riscaldamento e dormiamo. Poi. Ma vabbè, se c'è l'erbero ce la fai andare o ti blocchi noi. Per forza. Non succede, basta, avvertiamo, bloccati per neve, e basta, fino a quando ci tolgono fuori, rimaniamo lì. Televisore ne hai in cambio, sì. C'è il televisore in cambio. È tutto qua, c'è tutto, Luca, non rimaniamo sprovvisti noi. Di uso, l'ultimo motore il cambio, scaldi tutta la maladam, e tu che taglio, è l'unica, un casino. Avanti, riprendi... aspetta un attimo, aspetta, ok, riprendi, cazzo, qualche okay. Non so freddo, molto, un bel, cioè in testa si sta tremando. Lo so, sta facendo freddo. Dove sei arrivato, dove sei? Quando sono una famiglia, sì, sì, sì. Da male, venerdì. E siamo quasi a fine settimana. Dove stai viaggiando, dove? Dove stai viaggiando? Ma io mi ricordo quando altri partiti, andavo a scuola, c'era l'acqua da bere, c'era il panino, c'era quei libri, ci davano i libri, ci dava quello, ci dava quell'altro, ma devi comprare tutti i genitori, ci dobbiamo riunire ogni tanto, ragazzi, ci mollazione dei soldi per comprare queste cose per poter andare i bambini a scuola. Io mi ricordo che c'era la messa, si andava a messa, ti davano i libri, ti davano le matite, le gomme, tutto il necessario che ci voleva solo sulla scuola. Adesso è tutto a comprare chi il genitore, ma cazzo, ma il genitore, chi lo può comprare lo compra, e chi non lo può comprare non è cosa cazzo deve fare. Casino, guarda, se non si sblocca qualcosa o mettono in riga qualcheduno, qualche cosa di brutto deve succedere per forza. Per carità. Ma sei quasi vicino al distributore. Ah, dove? Il distributore si è arrivato. Tanto, viva! Va bene, dai, non mi fate la buona, a più dopo se coincide, se non ritenete di super, salutato dove. Ciao. Attenzione, binario 21, Gappa. Attenzione, binario 21, Gappa. Non l'ho sentito, no, ancora. Aspetta, non si spugna, scazzo.